piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Cosa significa restate a casa per chi una casa non ce l'ha? E come vive questo periodo chi sopravvive per strada? A Napoli, in questi giorni di allarme coronavirus e di insolito freddo a inizio primavera, siamo andati a vedere qual è la situazione. Hanno bisogno sicuramente di mangiare, di bere. Alcuni di loro hanno avuto anche una multa, per esempio, anche se non hanno casa e non possono stare tranne che per strada, insomma. Le persone qui hanno paura del coronavirus, ma hanno anche paura di non poter mangiare domani, di non poter più lavorare, di non avere un posto dove stare. C'è chi... È un momento di leggera confusione, è andato in onda la copertina che era andata ieri quando parlavamo delle persone senza fissa dimora. Oggi l'argomento è un altro, lo premetto io, tenete conto che in questo momento stiamo tutti trasmettendo in situazioni emergenziali, anzi ringrazio per l'attenzione da Milano Andrea Roccabella, Anita Panizza in assistenza, Fabrizio Intonti che è a casa sua e che ci sta senz'altro aiutando per quanto è possibile a andare in onda, Sandro Fortunati, senza il quale non sentireste la mia voce, ha appena rimesso a posto il dispositivo attraverso cui potete anche vedermi via streaming video. Oggi volevo fare una trasmissione, è giusto che sia partita in maniera così informale, leggermente più di respiro rispetto a quelle del passato, in cui mi rendo conto di avervi posto tutti i problemi in maniera molto implacabile, senza mediazioni, senza quel filo di speranza che a tutti piacerebbe ascoltare. Ma ci tenevo ad essere pragmatico rispetto a quelle che secondo me erano delle sacche che richiedevano una maggiore attenzione rispetto a quello che normalmente tutti stiamo dicendo, rispetto alla situazione che ci vede in questi giorni chiusi tutti dentro casa, chi più chi meno. Oggi volevo sottoporvi attraverso la modalità del sondaggio, che in fondo la maniera più di sollievo e di divertimento per poter esprimere la propria idea, quindi anche per sentire quello che è mediamente il polso della popolazione chiusa in casa rispetto a un problema, come in questo momento giudicate questa sorta di continuo ritornare sui propri passi attraverso decreti, attraverso comunicazioni, attraverso informazioni che non sempre poi alla fine arrivano all'ultimo terminale che dovrebbe trasformarle in dei comportamenti in maniera molto chiara, il fatto che occorra stare chiusi dentro casa. Allora ieri era la giornata della spesa, quindi ho osservato un po' la situazione, faccio l'esempio rispetto al piccolo e limitato mio osservatorio, l'osservazione di Viale Mazzini rispetto alle mie uscite precedenti era notevolmente più trafficato. C'era più gente in giro e vedevo anche più gente in strada, vedevo le persone facendo la corsetta, vedevo Umarell sempre più attenti a fare passeggiate e ripasseggiate ai loro cagnolini e cominciavo a vedere le prime mamme con i bambini per la mano, con i bambini, oddio, certi mi sembravano quasi in età matura, adulta, però evidentemente siano tutti fatti forte di questa apertura, che poi non è nemmeno un'apertura, era nelle forme magari non troppo chiare, affidato al buon senso di chiunque, il rapporto tra un bambino che sta impazzendo dentro casa perché è abituato a uscire e la necessità che quel bambino non diventi pericolo per se stesso e per gli altri, entrando in contatto con possibili fonti di contaminazione. Beh, l'ambiguità c'è, obiettivamente c'è, sembra quasi l'area generale che ci sia un momento che viene riassunto con la formula sibillina, che vuol dire tutto e non dire niente, di plafond, che siamo arrivati in questa area di plafond in cui si può riallargare comunque le maglie del controllo e quindi la gente dice vabbè dai, è tutto passato, cominciamo a uscire. Altri dicono invece, ma scusate, il distanziamento sociale al momento è l'unica maniera che abbiamo per stare tranquilli noi e far stare tranquilli gli altri, quindi cosa vuol dire portare i bambini fuori, che improvvisamente si riempiono i giardinetti, ogni mamma e ogni papà esce con il suo bambino, escono tutti assieme, comunque se i bambini vogliono toccarsi, giocare, fare casino assieme, vuoi negare ai poveri bambini di stare assieme e quindi lentamente le regole cominciano a essere sfilacciate, non c'è più una regola precisa. E ci si trova di fronte a una posizione abbastanza manichea. Da una parte qualcuno invoca il metodo cinese o il metodo indiano, c'è un video che gira con militari che vanno per strada con degli staffili, con dei tubi di gomma, e picchiano selvaggiamente tutti quelli che vedono per strada, poi li prendono a bastonate, gente che corre, scappa con le biciclette, con i motorini, e questi come li vedono? Giù sciabolate sulle natiche tutti quelli che passano. O cominciare a seguire quella che è una linea anche lievemente demagogica e rassicurante, ma sì, in fondo come facciamo, poveri bambini, sono abituati a uscire, devono soffrire, e altresì chi non ha bambini per casa, cioè scusate, chi ha il cane esce, chi ha il bambino esce, io che non ho fatto niente di male, sto dentro casa, allora esco anch'io, vado a fare la corsetta, e no, qui calma, si può fare la corsetta, ma non deve essere una corsetta sportiva, puoi correre, ma puoi correre soltanto nei perimetro accanto a casa tua. Io ho degli amici che la mattina pigliano, se ne partono da Piazzale Clodio, se ne arrivano fino a Ponte Milvio, dice beh, sempre primo municipio, sempre casa mia, e corrono mogli, mariti, tutti assieme. Insomma, come la vedete? Secondo voi bisogna ritornare al rigore e dire no, non se ne parla, morire è la peggiore delle ipotesi e far morire altri è la peggiore delle ipotesi, quindi si sta a casa, i bambini si arrangiano. Altri che dicono ma no, poverini, e via dicendo, o altre posizioni. Quindi oggi è il vostro momento, cominciate a chiamare all'800240024 e ascoltate con attenzione le voci del nostro sondaggio. Dopo le pressioni di genitori e famiglie che hanno chiesto al governo anche attraverso petizioni di poter uscire di casa con i propri bambini, i più insofferenti alla quarantena, è stata diffusa una circolare dal Viminale che lascia intendere che è consentito a un genitore fare una camminata intorno alla propria abitazione con un proprio figlio. Questa interpretazione delle misure restrittive anticontagio ha scatenato inevitabilmente delle polemiche. Alcuni sostengono che questo allentamento provocherà l'inizio della fine della quarantena per volontà popolare. Altri continuano a sostenere che si sta solo rispettando un sacrosanto diritto all'ora d'aria per i nostri bambini. Voi che ne pensate? Chiamate ora all'800240024 e diteci come vi schierate tra queste tre categorie. 1. Farsisti e rigoristi. Ecco la solita farsa all'italiana. Questa dell'ora d'aria per i bambini sarà la scusa che consentirà a tutti di andare in giro e il contagio non si fermerà più. Le regole o valgono per tutti o per nessuno. 2. Piezzecoristi libertari. Sacrosanta l'ora d'aria per i nostri bambini, che non possono vivere reclusi tra quattro mura. Se si possono portare i cani fuori, è giusto che si possano portare anche i nostri figli. 3. Permissivisti parziali. Il permesso di fare uscire i genitori con i bambini andrebbe accordato solo nei casi di comprovato e reale disagio familiare e verificato dalle forze dell'ordine. (800) 24 0024, questo è il nostro sondaggio espresso in tre categorie. Ricordo, sono state petizioni, c'è stata una richiesta fatta da, che è partita da la nostra amica Silvieri Tagliabue, Cristina Silvieri Talbalbue, che ha scritto la sindaca Raggi portando il punto di vista dei bambini, citando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi i bambini stanno dentro casa. Altri dicono ma che ci frega dei bambini, stiano a casa. Anna Frank e altri bambini sono stati 2 anni chiusi in un pertugio e sono anche stati poi portati nei campi di concentramento. I nostri potranno stare con 1000 televisioni, 1000 canali digitali, 1000 giocarelli, mangiati, bevuti, riscaldati, pasciuti, lavati senza nessun problema, 3 settimane dentro casa, che mondo siamo? E altri dicono invece ma forse il problema va considerato in maniera diversa, in maniera un po' più approfondita. Ricordo le tre categorie. I farsisti rigoristi dicono la solita cosa all'italiana: quest'ora d'aria diventerà la maniera in cui uscirà prima la nonna, poi la zia, poi la mamma, poi il papà, poi il nipote, chi ha più figli li presterà agli altri, chi ha 3 bambini farà delle uscite scaglionate. Insomma, avremo come al solito questa cosa all'italiana per cui in nome dei bambini ci ricontinueremo a contagiare tutti, andremo nei giardinetti, le mamme poi ciarleranno tra di loro. Insomma, il mamma pancinismo nazionale emergerà in maniera potente. I piazzecoristi libertari dice no, chi ha i bambini è giusto che debbano uscire, mica possono stare chiusi in quattro mura, poverini, dimenticando che soltanto due generazioni fa i bambini tranquillamente andavano nelle solfatare, nelle miniere di carbone, nessuno, leggetevi il libro Cuori, guardate il muratorino in che condizioni viveva, guardate il piccolo scrivano fiorentino, viveva solo con la nonna, abbandonato, alla fine finisce accoltellato da un malvivente, capito? Diciamo che le condizioni dei bambini oggi sono stragrandemente privilegiate rispetto a situazioni del passato. Non dico che il passo della civiltà non vada considerato e vada disprezzato, ma non credo che alla fine starsi un'altra settimana in casa con 1000 cartoni animati, 1000 giocarelli, 1000 genitori a disposizione, tablet, computer e via dicendo sia un problema. I terzi invece, permissivisti parziali, sono quelli che dicono: consideriamo alcune situazioni, allora è giusto che in alcune situazioni di particolare disagio, famiglie che hanno appartamenti molto piccoli, molti bambini, bambini magari con problemi, non so, di iperattività o di bisogno particolare, è giusto considerare questi casi. Attenzione che non diventi una sorta di via libera per uscire attraverso la scusa dei bambini. 800240024, da che parte state? Stefano da Milano, il primo, buongiorno. Buongiorno. Ma mi sembra che in Italia sia impossibile applicare con un criterio una regola. Si dice che bisogna stare distanziati, di non uscire, seguiamola. Cioè, trovo incredibile che ogni volta si trovi la deroga per il bambino piccolo, il bambino medio, il bambino nervoso. Non lo so, mi sembra veramente un po' uno specchio fedele, come sempre, della nostra mentalità. Quindi lei sarebbe un rigorista, farzista rigorista, non facciamo farsa. Allora, Stefano, la voglio aiutare. In questo esatto momento, quindi alle ore, no, esatto momento, diciamo 2 ore fa, è uscito la circolare di aggiornamento da parte del Viminale su questa ambiguità su cui noi ci stiamo interrogando attraverso un sondaggio. La riassumo per lei in questo istante, ce l'ho davanti, la sto vedendo a tempo reale, poi vediamo se ci dà degli elementi per partecipare al sondaggio. Allora, chiarimento del Ministero dopo la circolare del 31 marzo sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19. Quindi non basta una circolare, serve una controcircolare, perché tutti hanno capito male, alcune agenzie di stampa anche hanno trasmesso male la notizia, quindi tutti hanno ripreso le scarpette, il misuratore di battiti cardiaci, le fasce, le magliette fosforescenti e tutti giù a correre. Allora, le regole sugli spostamenti per contenere il coronavirus non cambiano. Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente alle ipotesi già previste da decreti del Presidente del Consiglio, magari riassumerle era meglio, per lavoro, per motivi di assoluta urgenza, per necessità e per motivi di salute. Quindi non c'è proprio. Ancora non si capisce. Circolare il Ministero 31 marzo è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale, cioè la gente poneva il problema. In particolare è stato specificato che la possibilità di uscire con figli minori è consentita a un solo genitore per camminare, purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione. Prossimità sarebbe anche il caso di dire quant'è la prossimità. È nella circoscrizione, nel quartiere, nella piazza, nella via, prossimità, uno dovrebbe dire massimo a 50 metri, 100 metri, magari è più chiaro, però bisognerebbe poi misurarlo, si apre un altro problema. Quando bisogna dare delle regole esatte, perché le persone non sono capaci di interpretare la giusta maniera di vivere un'emergenza, sentono una grande difficoltà. È consentito a un solo genitore per camminare, quindi non si corre col bambino, purché questo avvenga in prossimità alla propria abitazione in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità e salute. Quindi se il bambino ha particolari problemi, se il bambino è bello, tranquillo, pasciuto, sereno, non deve essere il motivo, come con il cagnolino, per poter uscire. Per riguardo all'attività motoria, quindi quelli che vogliono fare la corsetta, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. Camminare, La circolazione, ribadito, non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, che continua a essere vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco, giardini pubblici. Quindi, ragazzi, la corsetta non si può fare, inutile che andate sulla pista ciclabile o andate nel parchetto travestiti da corridori o da sportivi, non si può. Potete camminare vestite da Omarell, con le scarpette, con il mocassino, con la fibbia, in modo che sia chiaro che non fate sport, camminare intorno a casa, mettetevi d'accordo anche con gli altri, perché se tutti scendono contemporaneamente intorno a casa c'è una folla. Mariella, buongiorno. Sì, buongiorno, dottore. Scusa, ho preso un po' di tempo, ma era uscita la circolare sulla circolare della circolare, quindi ho spiegato a tutti che non cambia niente, a casa, film, a casa, e questa è la regola. Lei come la pensa? Io penso che, a parte le circolari, dovremmo aver capito quello che dobbiamo fare, quindi se fossimo maturi, adulti, e confido in questa cosa, dovremmo capire da soli che non è l'allentamento della regola che ci deve far paura, ma la consapevolezza che fare quello che si deve è utile a tutti. Io ho un'impressione, vediamo se lei mi conferma la mia impressione, che il distanziamento sociale viene visto un po' come le tasse, che se puoi evitare di pagarle meglio, non è che è un dovere proprio per tutti, è un dovere per chi è ligio alla regola, ma in fondo è una regola che la mettono per una sorta di ghiribizzo, per un'imposizione, cioè una sorta di classe dirigente che ci vuole imporre anche di stare a casa per forza, ma perché non possono limitarci i nostri diritti? Si trovano i bambini, si trovano i cagnolini, poi si trovano, diciamo, un po', si troveranno chi ha le emorroidi deve camminare, chi ha il raffreddore però in questo paradigma io sarei quello che potrebbe evadere le tasse, perché ho un cane, no? Vabbè, il cane dovrà uscire ogni tanto, chiaro, sì, che deve uscire. Però ad esempio io prima uscivo tante volte, io ho lavoro a turni, quindi se è il giorno di riposo posso stare tanto tempo fuori col cane, no? Invece mi sono comunque contingentata alle uscite. Quindi invece di usarlo come pretesto, io guardi, posso dirle, io dal mio balconcino vedo persone uscire col cane, tutta la famiglia scaglionata, quel povero cane alla fine ce la fa più, con la lingua di fuori dice basta, ho pisciato tutto quello che potevo pisciare, non ce la faccio più, fatemi dormire, e invece riesce ancora la sera, no, il girettino. Il mio povero cane è anche ingrassato, poveretto, però esco due volte, a metà mattina e metà pomeriggio, poi dipende da quando lavoro. Quindi lei applica con rigore la norma, con una sorta di giudizio individuale che dice ma non ne approfittiamo. Io immagino che c'ha cani e bambini, in questo momento si frega le mani se non è della sua idea, dice che bello, allora cominciamo, abbiamo 3 figli e 2 cani, 5 uscite, quanti siamo? 4, 5 per 4, 20, questa famiglia può uscire 20 volte. No, le uscite non sono per me, sono per il cane, quindi 2, 2. Mariella, molto chiaro, grazie. Sentiamo Marco da Prato, un altro giudizio. Marco, salve, buongiorno. Salve, io ho un bambino di 2 anni e mezzo, però ho deciso con la mia compagna di non farlo uscire. Cioè, abbiamo un terrazzo, per fortuna, oggi come oggi la vera discriminazione sociale secondo me è avere un terrazzo, un cortile. Sì, è fortunato, chi ha il terrazzo è fortuna, chi ha il giardino poi non ne parliamo, figuriamoci. Sì, certo. Anche se sono sempre stato, cioè tutti mi dicevano ma il terrazzo per il giardino è dura da mantenere, ci vuole la passione, invece ora si risolve. Però voglio dire una cosa, ma dove li dobbiamo portare poi questi bambini? L'unico, il parco più vicino che ho è un'area sgambatura cani, perché ormai ci sono più aree sgambatura cani che parchi per bambini con attrezzatura. Sì, diciamo perché... che anche vicino a casa mia, se dovessi fare il conto, sono più spazi per il parco Bau, dove si galleggia nella merda di cane, e esatto, piuttosto che spazi. Ma il bambino no, sotto casa, lei portarlo a fare una passeggiatina, sì, nel marciapiede sotto casa. Che lo mettono sotto le macchine, quelle poche macchine che passano, ma poi cioè, non è mica un cane che lo devo portare a passeggiare sotto casa, così mia figlia ha una piccola belva, 2 anni e mezzo, corre come un dannato. Sì, ma il bambinismo è una delle, diciamo, delle chiavi di lettura più profonde, più diffuse della nostra società, e quindi è logico che chi dice in nome dei bambini tutti applaudono, che bello, i bambini devono uscire. Io non credo che lo Stato sia crudele, che costringe bambini che hanno veramente dei problemi a starsene dentro casa. Bambini con dei problemi particolari, anche problemi gravi, cioè che rientrano nell'area dei bambini con delle disabilità, con un certificato medico, se questo è indispensabile per la loro sopravvivenza, se no hanno delle crisi oppositive, è giusto che escano. Ma il normale bambino, in realtà, secondo me, se stanno un'altra settimana o 2 a casa, non credo che per questo ne avrà dei traumi che se li porterà per tutta la vita. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog. Dopo le pressioni di genitori e famiglie che hanno chiesto al governo anche attraverso petizioni di poter uscire di casa con i propri bambini, i più insofferenti alla quarantena, è stata diffusa una circolare dal Viminale che lascia intendere che è consentito a un genitore fare una camminata intorno alla propria abitazione con un proprio figlio. Questa interpretazione delle misure restrittive anticontagio ha scatenato inevitabilmente delle polemiche. Alcuni sostengono che questo allentamento provocherà l'inizio della fine della quarantena per volontà popolare. Altri continuano a sostenere che si sta solo rispettando un sacrosanto diritto all'ora d'aria per i nostri bambini. Voi che ne pensate? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci come vi schierate tra queste tre categorie. 1. Farsisti e rigoristi. Ecco la solita farsa all'italiana. Questa dell'ora d'aria per i bambini sarà la scusa che consentirà a tutti di andare in giro e il contagio non si fermerà più. Le regole o valgono per tutti o per nessuno. 2. Piezzecoristi libertari. Sacrosanta l'ora d'aria per i nostri bambini che non possono vivere reclusi tra quattro mura. Se si possono portare i cani fuori, è giusto che si possano portare anche i nostri figli. 3. Permissivisti parziali. Il permesso di fare uscire i genitori con i bambini andrebbe accordato solo nei casi di comprovato e reale disagio familiare e verificato dalle forze dell'ordine. Molti si stanno chiedendo come mai da qualche giorno nella diretta video del mio programma appare in primo piano una paperella gialla di plastica, alla quale oggi ho messo anche la mascherina come buon esempio. Vabbè, facciamo un gioco: chi indovina perché c'è la paperella, a cosa faccio riferimento, cosa intendo, venerdì lo dirò. Qualcuno già lo sa perché l'ho messo nel nostro gruppo super segreto su Telegram, Melog ha parlato, però non fate la spia, c'ha un senso la paperella, è un'idea ottimistica rispetto a quanto in fondo alcuni eventi che sembrano catastrofici o lesivi comunque dell'ordine generale, dell'equilibrio della natura, in realtà poi alla fine si rivelano interessanti se l'apporto scientifico sa usarli bene. È l'idea che possa anche da questo, alla fine, l'unico ottimismo che mi sento di impugnare, uscire qualcosa che ci cambierà in meglio. Allora oggi stiamo analizzando il fenomeno del distanziamento sociale alla luce dei vari tentativi, alcuni devo dire anche un po' goffi, istituzionali, di dare un botta al cerchio e una botta alla botte, nel senso di tenere le persone dentro casa, ma non sembra nemmeno troppo cattivi, sono istanze che comunque fanno leva su forti elementi emotivi, prima i cagnolini, poi i bambini, poi non so cos'altro verrà fuori. Simonetta da Firenze, buongiorno. Faccio parte del primo gruppo. Rigorista. Sì, sì. Esprima il suo pensiero. Allora, io sono nonna di due nifosine di 5 e 2 anni che hanno una piccolissima terrazza e da quando è cominciata l'emergenza sono a casa. E la piccina tutte le mattine chiede ai suoi genitori: oggi si può uscire? Ecco, e gli è stato spiegato compatibilmente con l'età che non lo può fare. Anche Simonetta, scusi se io dico, perché sì, siamo sulla stessa barca. La nipotina se esce gli riporta il virus, secca la nonnina, questo no, devo capire. No, ma noi viviamo in due zone di Firenze lontane, quindi No, non c'è questo pericolo, non è egoismo da parte mia, no. No, ma che egoismo? Anzi, salvarsi la vita è un dovere. Sì, va bene, ma insomma, no, qui non c'è questo problema, non c'è questo aspetto. Quindi, ecco, io più che altro parlo della sfiducia verso un pochino noi italiani, perché sarebbe giusto fare il terzo punto e aderire al terzo punto con delle deroghe. Però ho l'impressione che troveremmo comunque, come diceva lei prima, di pagare le tasse, qualche inghippo per poterle non pagare o per poter uscire con la scusa del cane, del bambino. E quindi, guardi, le posso dire una cosa personale, poi domani dedicheremo tutta la puntata a questo. Come è noto al mondo, ho un figlio autistico, non è più bambino, è grande, ma diciamo i decreti permettono alle persone con autismo di uscire. Ho un certificato medico del mio neuropsichiatra che mi dice che comunque Tommy avrebbe bisogno di uscire un po' da casa per evitare crisi. Sto cercando di uscire il meno possibile. Tommy non esce soltanto, fa un tragitto brevissimo fra casa e studio per stare il pomeriggio a lavorare assieme al papà. Potrei andare a fare passeggiate, prenderlo in macchina, portarlo in giro e esibire il certificato e dire: c'ho il figlio autistico, vado dove voglio. Ma non è così. Sono convinto che per la mia salute, innanzitutto, se ho 65 anni, capito? Ma anche in generale, come esempio generale, è meglio che il più possibile le persone stiano a casa. Ho questa idea. Sentiamo Gennaro da Trento. Buongiorno. L'ascolto. Salve Gianluca. Grazie. Io non sono né l'uno né rigorista né liberista, nel senso che penso che dipende dalle parziale, situazioni. Parziale, quindi, permesso parziale, come dice lei, terza permesso, posizione. Purtroppo secondo me ce l'abbiamo, diciamo, dobbiamo stare un po' all'intelligenza e alla civiltà delle persone. Io spiegavo prima, io abito fortunatamente in un condominio che ha di fronte un parco grandissimo, dove è difficile incontrarsi con altri bambini e quindi sarebbe semplice portare i bimbi in giro. Però penso dove abitavo prima, dove era una centrostrada, dove invece capiterà in piazza di incontrare persone che vanno al lavoro alto, e quindi in quel caso non è bene portare sia per i bambini sia per le persone più anziane che saranno costrette a fare la spesa, farli stare a contatto, anche se non sì, Gennaro, diciamo, vicino. Tutti fanno questo ragionamento. Se esco io la pista ciclabile è vuota, se esco io il parco. Sì, ma è vuota, esatto, perché gli altri stanno a casa, perché a se casa, uscissero tutti. Allora, mi stanno dicendo che non dire inesattezze, nessun decreto dice che i bambini negli autistici possono uscire liberamente. Hanno degli spazi di possibile uscita come motivo dell'uscita, proprio per la loro condizione, gli autistici. Questo è nel decreto. Potrei portare a fare una breve passeggiata se questo fosse necessario per il suo equilibrio, quanto potrebbe avere delle crisi oppositive o fa parte comunque delle routine indispensabili alla sopravvivenza psichica di un autistico. Non ho detto può uscire liberamente, nemmeno i bambini possono uscire liberamente, possono essere portati a fare un breve giro sotto casa. Ecco, viene chiarito, si possono sgranchire le gambe vicino alla loro abitazione, però questo concetto, ripeto, non è mai stato espresso con grande chiarezza. Uno dovrebbe dire esattamente i termini in cui può essere fatto, se no ogni giorno deve essere interpretato alla luce di quello che stiamo vedendo in questa trasmissione. Gennaro dice esattamente quello che tutti pensano. Sì, è vero, posso uscire a sgranchirmi le gambe, benissimo, dove me le sgranchisco? Devo camminare fino al parchettino, mica posso sgranchirmele nel marciapiede dove passano le macchine. Quindi al parchettino comunque si aprirà una negoziazione con l'eventuale rappresentante delle forze dell'ordine, che dice: perché stai qua col bambino, dove abiti? Abito a 300 metri. Ma sei lontano da casa? Sì, ma qua è l'unico parchetto, ma perché sei portato fuori il tuo bambino, sta qui da mezz'ora? Perché mio bambino ha bisogno tutti i giorni di starci mezz'ora. Quando entra in gioco la negoziazione individuale, non c'è più una regola uguale per tutti e si comincia a entrare in delle sacche di discussione eterne in cui ognuno pensa quello che vuole. Claudio, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sarei per la quarta opzione non menzionata, cioè tutti rigorosamente a casa, perché dobbiamo essere... La linea molto cinese, tanto per cambiare, linea cinese. Esattamente, linea cinese. I morti parlano, è inutile che ci fermiamo un minuto a osservare un minuto di silenzio e poi facciamo tutti quello che vogliamo. No, basta, qui ne va della vita di tutti noi, pertanto possiamo sacrificarci un mese, due mesi, tre mesi, perché ne va della vita delle persone. Non ci sono storie, indubbiamente chi legifera non lo fa con cranio, perché creano solo grande confusione. Ci vorrebbe un po' dall'alto una regola chiara, definitiva, fino a quando l'emergenza non rientra. Però non se ne può più, ogni giorno c'è una scappatoia, una deroga, un'autocertificazione differente. Posso farle un esempio, scusi, le faccio un esempio. Prego, prego. Io sono classe 1954, quindi faccio parte, l'ho detto più volte, dei bambini che da piccoli sono stati allevati con i racconti della guerra. Quando c'era il coprifuoco e non si poteva uscire, quando Bravo. Suonava la sirena bisognava andare al rifugio perché arrivavano le bombe sulla testa, e adesso c'è qualcosa che più o meno assomiglia a delle bombe, anche se non è paragonabile, non mi piace nemmeno la metafora, siamo in guerra. La guerra è un'altra cosa, è molto, anche molto più crudele e peggiore di quello che stiamo passando. Comunque sì, allora le regole erano certe, il coprifuoco non si violava. Quando c'è il coprifuoco, Bravo. Non è che uno usciva, mia nonna usciva con mio papà, no, mio papà faceva guerra, e diceva: oh, guarda, il poverino deve uscire, devo uscire col coprifuoco. Quando c'è il coprifuoco, c'è il coprifuoco, non è quando, quindi dobbiamo considerare che è un coprifuoco. So che sono è crudele, d'accordo. Non siamo abituati a questa roba, perché non siamo più abituati a situazioni di emergenza, ma ognuno che esce col bambino, ogni piagnisteo sul povero bambino che deve uscire, bravo, è un bravo. Violare il diritto alla vita delle persone sono che sono più esposte al virus. Io la penso così, è impopolare quello lei. Che dico, la che vado contro lei. L'idea di tanti miei colleghi, però ognuno esprime nella libertà e nel rispetto delle opinioni altrui la propria opinione. Alfonso, sentiamo Alfonso, provincia di Brindisi. Alfonso? Sì, mi sente? Sì, l'ascolto, provincia di Brindisi, l'ascoltiamo. Provincia di Brindisi, sono qui per il piagnisteo, caro conduttore. No, ma adesso è modo no, di io dire, non sono d'accordo, per... no, perché guardi, per come sta impostando, io sono anche un po' stufo di sentire gente che non ha figli parlare. Allora, io sono in un piccolo paese. Sì, lo so, lei sì, tanti che intervengono no. Una bambina di 2 anni e mezzo è diversa da una bambina di 5. Io sono sì, in un capito. Piccolo paese dove non c'è nessuno per strada e basta fare qualche centinaio di metri per arrivare in campagna. Io prima che uscissero le circolari uscivo a debita distanza da tutti, non incontravo praticamente quasi nessuno e se mia figlia incontra un altro bambino le tengo la mano vicino a me, non si va a incontrare gli altri bambini. Allora posso capire che in città ci siano delle questioni più ampie, però ci sono delle situazioni in cui è veramente quasi stupido non uscire di casa. Allora, poi Alfonso, i bambini no, no, scusa, un'altra Alfonso, cosa ascolti. Sì. Sì, finisca un'altra così cosa. Poi il tablet, la TV, i cellulari fanno male i bambini. Io ho visto l'effetto su mia figlia. Dopo qualche ora di TV mia figlia cambia, diventa nervosa e comincia a sbrettare. Noi siamo nella situazione peggiore, abbiamo un solo figlio e quindi mia figlia non ha altro che i genitori da giorni. Allora scherzare su queste cose e fare questo ritratto degli italiani come della gente che tende a evadere le regole, a non rispettare le regole, a me non piace. Gli italiani sono un popolo straintelligente. Io sono per uscire Alfonso, di casa rispettando le regole. Si è capito. Sì, le regole, rispetti la regola di aver parlato e usare il suo spazio in maniera migliore. E, siccome è finita questa fase della trasmissione, devo dare la linea, rispondo all'ascoltatore fra un istante, così dico quello che penso io. Melog 800240024, rispondo velocemente all'ascoltatore che è irritato, che difendeva l'integrità degli italiani. Non stiamo a fare proclami di orgoglio nazionale. È fortunato, vive in un paesino ai limiti della campagna, semideserto, e trova sciocca la regola per lui. Dice, valga per gli altri, non per me. Io mio figlio lo posso portare fuori con la campagna. La domanda è, ma come si regola in questi casi? O si dà una regola che vale per tutti e pensa ai bambini che abitano in una periferia, in una grande città e comunque non possono uscire e quindi fa anche lui questo sacrificio, se no esca a suo rischio e pericolo, ma non può pensare che ci possa essere una regola che apre il serraglio per tutti perché lui ha la campagna davanti, esce e ha campagne sterminate e dice perché non posso uscire. È vero, dal suo punto di vista è una regola sciocca, ma il paese è difforme nella sua composizione topografica e quindi chi fa le regole pensa naturalmente alla maggior salvaguardia della cittadinanza. È logico, chi sta in campagna, chi vive in un casolare di campagna, chi ha un bello chalet in montagna intorno a uno spazio recintato che è soltanto per lui e vive insieme alle caprette, agli animali, ai cagnolini e ai gattini, ha un'altra vita, ma nemmeno c'è, occorre che lo dica, perché poi fa rodere quelli che in questo momento vedo affacciati alla finestra del balcone nel mio androne chiuso e dicono, ma beato lui, noi non possiamo andare oltre questo balcone. Bisogna capire qual è l'interesse generale di tutti, non è il proprio interesse individuale, almeno così la penso. Fabrizio da Lucca, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Io sono per la prima regola, sono un papà che ha 5 figli, di cui... Pronto, mi sentite? Sì, no, l'ascolto. È un caso diciamo, la pregherei anche di rispondere all'altro ascoltatore che ha una bambina sola, c'è la campagna davanti, dice, ma che volete da me? Io la porto fuori. No, io anch'io abito in periferia di Lucca, sono precisamente nel comune di Capannori, è un comune bene o male abbastanza espanso dove abbiamo anche noi la possibilità di avere le campagne. Però onestamente parlando, avendo 5 bambini, uno di 14, di 12, di 10, di 8 e uno di 2 anni, onestamente come padre non me la sento assolutamente di portare fuori i bambini a rischio e pericolo che possano contrarre questo virus. In ogni caso ne può portare uno per volta, Fabrizio, non tutti e 5 insieme. Sì, ma io sto parlando di sclero familiare, cioè proprio di un andamento mentale. Ecco, di conseguenza... Come organizzate la giornata, Fabrizio? Mi fate capire, perché vorrei dare anche qualche esempio a quelli che parlano, che ascoltano. Dice, sembra che ci sia l'egoismo terrazziero di chi non ha figli e sorseggia champagne. A prescindere dal fatto che 4 vanno a scuola, di conseguenza hanno un impegno scolastico, devono rispettare gli studi e devono fanno, cioè, però lo fanno attraverso la piattaforma online, penso, la no? piattaforma online, cioè. O se no tramite email, perché certe volte purtroppo la tecnologia italiana è un po' non tanto efficiente, purtroppo si creano delle problematiche, di conseguenza tramite email o WhatsApp arrivano gli stessi compiti e fanno il loro svolgimento. Poi a parte quello, sì, è vero, c'è anche la tecnologia come i tablet, i computer e i telefonini che un po' imprigionano i loro cervelli e, come diceva l'ascoltatore di prima, è un male. Però la sintesi che fa lei, Fabrizio, la sua sintesi dice: io ho 5 figli, sono nelle condizioni più esasperate perché ho 5 figli, vi rendete conto cos'è la vita quotidiana di una famiglia con 5 figli? Nonostante questo, penso che per coscienza preferisco tenerli a casa. Potrei uscire 5 volte al giorno, ogni volta con un bambino diverso, con un figlio diverso, nessuno potrebbe dirmi nulla, anche se faccio la passeggiatina sotto casa, però preferisco comunque essere rigoroso comunque al distanziamento sociale, perché penso che sia la maniera migliore per salvaguardia nostra e degli altri. Pietro, provincia da Foggia, buongiorno. Si avvicinano agli anziani con le mascherine e i guanti. Non ho capito, scusi. Pietro, pronto? Non ho capito. Ah, si, cioè, sono lì. Senta, io ho chiamato, sì, proprio per spostare l'attenzione. Il vero pericolo, intanto la saluto, il vero pericolo non sta all'aperto, sta negli ambienti chiusi, sì, dottor Nicoletti, sta nelle case, sta negli ospedali, sta nelle case di riposo, sta nei bar, sta nei ristoranti. Quindi, sono gli ambienti chiusi. Il vero, che sono chiusi, infatti sono chiusi. Mi lascio dire ancora un'altra cosa, il messaggio è giusto di restare in casa, è giustissimo, però va spiegato bene, va veicolato bene. In casa a che condizioni? Ci sono dei nuclei familiari numerosi. Se tu stai vicino, se tu ti avvicini a nonno o a papà senza mascherina, senza guanti, se tu non aereggi la casa 2 o 3 volte al giorno, se tu non usi asciugamani diversi, questo crea un disastro, crea una diffusione dell'infezione velocemente. Invece l'ambiente aperto a certe condizioni, mascherina, distanza... Se si mantiene la distanza di sicurezza non succede niente, non può succedere niente. Sì, però scusa, sì, vabbè, ho capito, è chiaro il suo discorso, però lei sta in qualche maniera, non ho capito bene, lei dice chi ha gli anziani in casa è pericoloso, può trasmetterlo agli anziani, ma più esce e più c'è pericolo che porta fuori, che porta qualcosa in casa da fuori, questo è il discorso. No, ragione dottor di più. Nicoletti, scusi, dottor Nicoletti, ci sono 200-300 mila positivi asintomatici che questo bravo governo ha creato, e sottovalutando per un mese e mezzo, questi 200-300 mila asintomatici infettanti stanno chiusi in casa. Allora devono stare a certe rigidissime condizioni, cioè l'attenzione deve essere portata sugli ambienti chiusi, sugli ambienti aperti. Sì, stia calmo, sennò si alza la pressione, diventa una categoria a rischio con la pressione alta. Stia tranquillo, ho capito. Io sono un medico e dico anche questo, e quindi dal mio punto di vista le scelte sono giuste, quelle di dire stare in casa, ma a che condizioni? L'ambiente chiuso è l'ambiente veramente a rischio. L'abbiamo già detto, le case vanno arreggiate, però questo è un altro progetto, un altro problema. Cerchiamo di rimanere circoscritti, visto che abbiamo ancora pochi minuti, rispetto al tema di oggi, che è un tema interessante. Vedo che poi l'attenzione media del pubblico che ascolta, che è indicativo, come vedete, sono persone da tutta Italia, dal sud, dal nord, al centro, capito? È abbastanza ligio a quella che è una regola generale che è stata data, che è quella del distanziamento sociale. Vanda, buongiorno, provincia di Milano. Io l'ascolto sempre, ma stamattina basta dire allentare un momento, io sono scesa dopo una settimana a fare uno zicco di spesa e ho trovato in giro passeggini con bambini per mano sotto i portici, col cagnolino, ma dico, ma siamo fuori di matto? Quindi ha avuto Wanda la stessa impressione che ho avuto io andando a fare la spesa, che come minimamente si dà un'idea di apertura, viene subito fraintesa e tutti fuori, perché è inutile che continuano a fare precisazioni su precisazione dai ministeri, la gente l'ha capita così, l'ha presa così bene, si esca coi bambini, tutti fuori coi bambini, adesso sarà difficile tornare indietro, la verità è proprio questa. Lei, Wanda, su Milano ha avuto la stessa impressione che stiamo avendo un po' tutti, chi si affaccia alla finestra, che improvvisamente sia come allentata la tensione per due motivi: la parola magica plafond, che sembra che improvvisamente si è arrivati a un punto di tranquillità, ci si può rilassare, e la parola escano i bambini, quando nessuno ha detto possono uscire i bambini, hanno detto una passeggiatina sotto casa un attimo se proprio indispensabile non ve la nega nessuno, ma già questa questa formula che va interpretata creerà un problema alle persone che dovranno girare e sorvegliare, che non sono gli indiani che hanno il nervo di bue e danno le staffilate sulle natiche, sono vigili, poliziotti, carabinieri che dovranno comunque ogni persona avendo un pestata fermarla, farsi spiegare, perdere tempo utilissimo che invece potrebbero usare per situazioni molto più importanti. Emiliano, sempre da Milano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Allora, no, io non sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore che ha detto prima perché cosa vuol dire avere i bambini, allora la porta fuori per la campagna. Io lavoro in ospedale, ok? E sinceramente da quando è iniziata questa quarantena, in realtà io qualche bambino sempre in ospedale, anche solo che accompagnava il genitore, lo vedevo, quindi lo portavano comunque, anche solo per la scusa, lo portavano comunque dietro. E poi sono molto, allora cioè io sono single. Voglio sperare che la situazione in cui non avevano nessun altro a cui lasciarlo, perché oggi portare un bambino in ospedale, se non c'è necessità, è criminale. È un virus la cui trasmissione principale di carattere nosocomico, cioè avviene nei luoghi di cura. Portare un bambino in ospedale è come portarlo in un campo minato, che bisogno c'è? Se non c'è bisogno. Questo perché? Perché comunque come al solito noi siamo un popolo, è lì che l'ascoltatore si arrabbia, ma noi siamo un popolo, la realtà è che noi siamo un popolo che non è capace di stare dentro delle regole che vengono imposte. I bambini vanno insegnati fin da piccoli che ci sono delle regole da rispettare, come lei ha detto prima, se c'è un maledettissimo coprifuoco va rispettato, al bambino va insegnato che non si può fare perché c'è un problema nazionale, un problema mondiale, bisogna insegnarlo al bambino, non perché però il bambino però, e allora poi abbiamo il cagnolino, lo portiamo fuori perché c'è il cagnolino, e il bambino perché, allora scusi, cioè, e le persone che hanno un handicap, che non possono camminare, ma che escono solo di casa solo perché debbono essere accompagnate da qualcuno, loro stanno in casa? Io la trovo veramente stupida questa cosa, e non trovo intelligente che chi si arrabbia che ha i bambini. Cioè che poi trova il fatto che ci arrabbiamo noi perché ce la prendiamo con loro. Come ha detto la signora. Sono punti di vista. Vede, questa mattina però io sono molto confortato dalla reazione del pubblico, mi aspettavo una reazione tipo diversa, avevo anch'io un pregiudizio, invece vedo che le persone hanno maggior coscienza di quello che si pensa. Tutti, anche persone che hanno bambini, ci pensano 10 volte prima di usare il bambino come se fosse il passepartout, il lascia passare per fare una passeggiata. Antonio, da Potenza. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Senta, io un po'... Velocemente che stiamo chiudendo. Sì, allora, io semplicemente, non dico che in realtà il problema è a monte. Cioè, sostanzialmente, queste non c'era bisogno neanche di fare una circolare, bisognava probabilmente impostare la cosa diversamente. Però Antonio, purtroppo la sta prendendo troppo larga, la sigla ci dice che abbiamo chiuso. Lei è per la permissione parziale, quindi è di quelli che dicono vanno considerati caso per caso. Ci sentiamo domani, alla prossima.